Chiamate? C'è Q canale 10, c'è qualcuno? Probabilmente non stai uscendo, vedo la portante però non riesco a sentirti. Chi è là? Il più forte, come dicono, l'accetto, e beh. Così sotto accetto sarò. Buonasera. C'era un'altra portante 9:20 e poi una intorno al 9, non so chi sia, boh. E magari stavano provando le stazionali, boh. Quando non c'è nessuno lo possono fare, eh. Allora, vabbè. Com'è andato questo vecchio anno, il festeggiamento? No, i festeggiamenti sono andati bene, magari l'anno non è stato eccellente, ne abbiamo passati di meglio, comunque pensiamo positivo e speriamo che quest'anno che venga, che è iniziato, sia molto meglio, non meglio, molto meglio di quelli appena passati, perché gli ultimi 2-3 anni non erano belli per nessuno, dai. Ok, rinnovate Gianni, riprendi. Ogni anno diciamo così, c'è più meglio però. Benzina che aumenta, tasse di brutto, questo e quell'altro, insomma, ho parlato anche con l'ex principale, mi ha detto quest'anno ci hanno dato una bella ammazzata di luce. Chiamate. Gatta, come sto uscendo? Niente, sto uscendo male, non si sente. Chi sei, Antonio? Ora. Chi sei? Non ti capisco. Ti senti così? Aspetta. Ora, prova. No, non so chi sei, identificati, c'è tutta la voce satura. Togli tu sì! Ciao Roberto, Tonino, dai. Perché te lo sono così male, Tony? Perché sto cercando di attaccare sul cacchio dei fidei al microfono, ragazzi. Sei chiuso completamente come modulazione del segnale, ce l'hai, sei quasi 9:20, però la radio è troppo compressa e satura, cioè c'è qualcosa che non quadra. Cosa stai attaccando? Il microfono Super CD? Adesso lo c'è. Hola. Uscita esce ma c'è il basso di radio. Controlla il vecchio game. Più che il vecchio game mi sembra che c'è qualche cosa in cortocircuito. Ora. C'è degli inneschi però un po' più forte adesso la radio. Di brutto. Però ha aumentato un po' la modulazione, non dico tanto ma un po' aumentato. Ora, prova di modulazione. Ha la connessione sbagliata secondo me. Avanza. E cosa? Adesso va bene per forza. Adesso sì. Adesso ho messo l'altro microfono. Ho messo il microfono di cincuglio. Ma quello che c'avevi cos'era? Il Super Sidekick? Yes. Devono essere attaccati solo tre fili, mi sai, di quelli. Non mi ricordo più gli attacchi, stavo riprovando, mi sono troppo le palline. Tre cavi devi attaccare di quello lì, tre fili solo. Lo so Gianni, lo so. Siccome sono nella spirale, quindi è un casino perché devo sbucciarlo un bel, capito? Non m'accetto. Vabbè, quella spirale però c'ha il terminale che è dritto. Ma quel cavo via poi c'è più rigido, è un casino. Ok, Robè, da te come sta levando? Meglio di prima, molto meglio, però non è forte la radio, Tony, ti ho ascoltato meglio un'altra volta. Un secondo che grido qua. Sei bassino, è comprensibile, però è troppo bassa la radio. Aspetta un attimino, che grido lo stia. Già, prestali un baracchino a Tonino, dai. Ma che Tonino ne ha di baracchini, a Puglia? Era una battuta, già lo so. C'ha la collezione, c'ha. Ma allora ho trovato un amico che viene in officina, non so come si chiamava però nel corso, non me lo ricordo, ma me l'ha detto, anche il padre era CB, ma stiamo parlando degli anni 70, così 77, 78, e però ce n'è ancora i baracchini, c'ho un coso, un pace 23, HP23, cosa, ecco già te li porto, e te porta a me la collezione. Il pace è bello, il pace c'è bene. 23 canali erano, quelli vecchi, c'era in officina, c'era Marco, già lo conoscete, non diciamo altro, e mi ha detto, Claudio c'era, cioè, non Marco, cosa dice, non c'entra niente, si sono sentiti, dice, tanti anni fa si erano sentiti. Mi? Adesso come va, Romè? Va a parlare. Hola, 1, 2, 3, prova. È meglio, però Tony non è eccellente, mi dispiace dirtelo. Ti ho sentito meglio in altre situazioni, comunque è migliorato, nei tre passaggi rispetto al primo, questo è il migliore. Ma con questo mi ascoltavi sempre bene, è possibile. No, adesso ti sento bene, forse è troppo, ma che microfono sto utilizzando? Microfono normale. No, adesso va bene, forse è un po' troppo lontano. E ho cambiato anche apparato. Questo è perfetto, va benissimo. Questo è il presidente. Non si fa la spia. I presidenti, non per dire, secondo me a livello di veicolari sono tra i migliori in assoluto, come modulazione, ricezione, sono dei bellissimi apparati. Cosa? Dove? Quali? I presidenti fanno come tipologia di apparati, funzionano bene in trasmissione e soprattutto in ricezione. L'anacquadratotto va molto bene in trasmissione, però ricezione è una cagattina, mentre il presidente è in giusto equilibrio. Ma il presidente è un'altra categoria, se tu il presidente lo metti con quelli che ho io, tipo col Cobra o cosa ti posso dire, o il Magnum a livelli, dai. Ma lì stiamo parlando già di altre cose, come tipo paragoni un 140 a un barattino, stiamo già parlando di apparecchi molto più recenti, più evoluti, più potenti. Io parlo di baracchini normali, dai, li parliamo tipo alla 48, alla 34, questi così SBE, questi baracchinetti. Il presidente secondo me è il più equilibrato di tutti come baracchino, molto selettivo. Adesso ci sono, ho visto la prova l'altro giorno su un video di questi che funzionano bene, questi 3009, 6009 eccetera eccetera, tu li vedi bellissimi, li ascolti bene, ho visto la prova, analizzato rispetto, già ti spaventi cosa c'hanno di spuglio di armoniche. Oh, ma dalla fabbrica magari sono stati toccati. Comunque anche il presidente non è un baracchino normale, perché c'è con più watt eccetera eccetera, non è normalissimo, A me non piace come estetica il presidente, però come apparecchio, come esce di modulazione è bello. Sì, assolutamente, no, parla, lo sai per quale motivo lo stava sperando questo tecnico? Non erano toccati tutti e due nuovi, apparati nuovi. Il problema è che utilizzano dei transistor non dedicati per l'alta frequenza, sono adattati, per cui tirano, generano delle armoniche. La seconda armonica tu devi vedere, a giumare da quanto la prima, allucinante, mettere là un baracchino diciamo più selettivo, diciamo costruito con criteri diciamo più con transistor dedicati, dove la seconda armonica era quasi incomprensibile, quasi invisibile, ma quello era allucinante, poi ti toccavano a non vederla la storia. Beh, torni a te di nuovo. Ah, Tony, ripeti. Stavo vittando la vita della maneccia qua. Tutto smontando sta. E comunque, no, Roberto, questo era, cioè, stiamo parlando con il presidente Zaccaritti. No, non lo conosco, io conosco quelli Lincoln, quelli più anzianotti, dai, questa magari è una radio più moderna, io parlo quelli di vecchia scuola, dai, quelli in ferro, io li chiamavo baracchini in ferro, con tutto il metallo, senza plastica, eccetera, eccetera. Lincoln, Abraham, poi cosa c'era? Il Washington, parliamo a parecchi anni 80, dai, adesso ne sono usciti anche nuovi, quelli con i display, e lo Smith era a Lago, con le lucette, con i LED. Ne ho sentito uno da poco, funzionava bene anche quello, però diciamo una tipologia diversa di radio. Io mi riferisco ai vecchi presidenti, quelli degli anni 80 fino agli anni 90, adesso anche loro probabilmente stanno costruendo roba più commerciale, dai, ma vanno bene comunque, come 3009 e 6009 sono eccezionali come modulazione, però ho visto al laboratorio, se ti dà un lineare a quella farina, lo sai cosa crei nella seconda armonica, per dire che sono mezzo watt di potenza su 5 che ne escono, e diventano 10 watt la seconda armonica e li subi un pochettino. Io fate già. Aspetta, guarda che Robè, questo qua è da sempre vecchio, non è? È una stazione base, ha tutti i nalovini davanti, lo smitter rotondo e tutto il metallo fuori. È un base, no, io pensavo fosse un veicolare di questa nuova generazione. No, è vecchio, vecchio. C'è lo smitter rotondo addirittura. No, non lo conosco io. Io conosco, diciamo, conosco, ho visto, qualcuno l'ho sentito, quelli classici veicolari, dai, di nuovo già ne riprendi tra. Su Washington ce l'ho presente, è uguale a Washington più o meno, dai. C'è uno smitto al solo e poi invece che averne lui gli strumenti ne ha uno solo. Cappa. Poi vabbè, comunque già va bene, dai, Tony, io per me è più. Se vai la radio presente, non ho niente da dire. E tu con quello stai uscendo già? Io adesso con Galaxy. sì. Ma hai cambiato microfono? Yeah. Ho sento un bel ricco di acuti, sento il respiro proprio, si sente forte gli acuti, magari è carente leggermente di bassi, però la radio già è comprensibile, potente. Ma grazie, Saturno sta parlando. Sì, sì, perché stavo parlando troppo vicino forse, guarda adesso. No, così va meglio. Perché ce l'avevo troppo vicino alla bocca, sono sdraiato e non mi rendo conto di quando me la avvicino troppo, capito? No, già va bene, dai. Questo qui è un microfono nuovo, è nuovo, che me l'ha consigliato Marco Condor, e se l'ha preso anche lui, e vanno molto bene. No, così va benissimo, poco fa è un pochettino troppo, forse vicino, sentivo il tuo respiro. Addirittura. È molto sensibile come microfono, già va bene. L'altro purtroppo ha fatto la brutta fine, dai. Ci sono consumate le carbonelle, tutto, ho preso e ho usato la capsula sua, l'ho messo un altro microfono e via, lì sono giù, tanto non facevano, si trovavano le capsule, le carbonelle. E vero me, ti è arrivato? Sì, sì, l'ho visto, lo conosco di fotografia, mai visto di presenza, o forse sì, forse mi hai fatto vedere, la volta sono venuto a prendere l'antenna un annetto fa, due anni, quanto mi è andata quell'antenna? Possibile, ce l'ha già? No, non ce l'avevo allora, questo ha potuto arrivare da fuori. No, comunque carino, molto bello, ci ha alimentato dentro il contenuto, così? Sì, sì, due vite, attacco la spina, due vite direttamente, è una spina di quelle volgamente chiamata sciucco, che si chiamano P36, in coso elettricista, sino la tedesca, come cacchio la vogliono chiamare? Tanti nomi la chiamano, spina tedesca, arasazzaresa, sciucco, e poi c'è l'enorme din, la chiamano, come hai detto tu, che neanche mi ricordo, vabbè, nel tuo mestiere ci insegnerai come si chiama il codice? La P36. P36, ok. Che non hanno mai uniformato le spine nel mondo, al contrario dei cellulari si sono messi d'accordo e hanno fatto tutti, adesso sono tutte standardizzate, a parte l'Apple, l'iPhone che ha fatto la sua dedicata, però tutti gli altri, prima c'era la micro USB, adesso ne hanno fatto una standardizzata, così non c'è bisogno di trovare la posizione, perché con quelle altre c'era la parte più stretta, l'entrata a forza e la forza verso l'hanno fatta esattamente a mettere in tutti e due i sensi. Non sono mai riusciti a mettere, se tu vai in Francia c'hanno una tipologia di spesa, se vai, non parliamo negli Stati Uniti, Australia, Giappone, di lì non ci fai niente perché con le spine nostre, mentre in Francia con la spina nostra normale, la classica, quella che conosciamo tutti da bambini, con quella riesce a entrare lo stesso, è simile alla sciucco, a quella tedesca, però si riesce ancora a entrare, però viceversa non puoi fare tu, se viene un tedesco qua con la presa loro nella spina nostra, nella presa nostra c'è la spina tedesca, non ce la puoi fare entrare, insomma la spacchi che è molto più grossa. Purtroppo si sono lamentati tanti cose di istituti che fanno le certificazioni, cioè non sono mai riusciti perché nessuna nazione vuole fare come l'altra, e per cui ognuno si tiene la sua, purtroppo è così. Di nuovo a te già. Per non fare una spina unificata per tutto il mondo, invece almeno se ti trasferisci in un'altra parte del mondo, devi usare da quelli che c'hai. Anche su Google la trovi, P30 ti dà quella presa lì, capito te, avete parlato in due, eccetera eccetera. Avanti già. Aspetta, avete parlato in due, ripeti, tu non ho sentito niente. Ho detto che chiedo media, ho sbagliato il numero, anziché 36 è P30. Stavo pensando a 36 chissà che cosa, ma non penso agli anni di qualcuno. Ok, va bene, comunque la P30, Robè. Poi c'era la P38, c'è pure, però la sa cosa. E ma chi se para, però? Quella punge, dai. L'ultima scorsa però ti fa più male, secondo come ti prende, vai già. Mamma mia. No, io le armi le ho sempre odiate, no? Non mi piace avere armi. Anche perché se perdi la cosa, la pazienza, cosa con qualcuno, se sai che c'hai armi, magari pigli l'arma e ti rubini da sopra. No Gianni, io la penso diversamente. Sì, le armi, sì e no, pistola no, però c'è un bel coltello che ti fa la bella pedicite. E ti spiego il perché. No, ce l'ho in macchina, non ce l'ho appresso, non lo porto mai appresso. Perché se diciamo con la gente che c'è, diciamo i delinquenti sono in giro eccetera, due o tre ti vengono addosso e ti picchiano, ti fanno la pizza eccetera, rubate un fugno, cioè già, non va bene. Devi subire, no, io la legge me la faccio io, tanto non c'è più niente da perdere, hai capito? Che non mi posso così o già fuori la parola tra guancia, non esiste, oh. E poi ti difendi senza armi. Io mi mi sono difeso da persone che mi hanno aggredito, mi sono difeso, era di QTV. Ma sapete se acciappi niente che va a cucito a mistura, oppure c'è gli acciappi tre che incudono me, ma sai cosa fai? Tu ti mantieni la chiudi cuti, cosa fai? Ti difendi, ma cosa ti difendi? Dai, è già per partenza, tre contro uno ce la puoi mai fare. Vabbè, avevo anche 25 anni, Tony. Ehi, cazzo, rompevano le scatole a tutti quanti, perché c'era mia moglie, che allora era la mia ragazza, era a casa di mamma, affacciata alla finestra, e questi qui, tutti quelli che passavano, li rompevano le scatole. E io sono tornato da Terralba, c'avevo il cambio con i vini, stavo parcheggiando, questi qua mi fanno, lì non può parcheggiare qua, squadra narcotici. E io gli ho detto, ascolta, lasciami in pace che sono stanco, tu più che uno della squadra narcotici ce la faceva drogato, lasciami in pace perché sono stanco, gli ho ripetuto due volte. E gli dici, vai, non vai in ufficio, così sempre appresso, cosa, alla fine mi sono guidato, ci ha giocato una camarada, uno, la giurata di intera, l'altro ha giocato una parada di B. E uno mi ha detto, hai trovato il piede per la tua scarpa, siete tutta la sera a rompere le scatole alla gente. Poi questi bastardi, sai cosa hanno fatto? Mi hanno chiamato la polizia. Il poliziotto era io e tre amici miei, sai, facendo servizio ambulanza, cosa riconosci? E tu già non mi dici, sì, sono io, sono scappato per squadra narcotici, sono tutta la sera che rompono le palle alla gente, invece testimone il signore. Allora tu a noi non ci conosci, mi ha detto. So farà di giù, su vera una greffa, se non scendi giù ti cediamo il camion, questo e quell'altro. E poi la polizia gli ha preso, gli ha detto, chi è questo della squadra narcotici? Mi fa vedere il tesserino. E lui ha detto, no, stavo scherzando, le ha cotto una camarada al poliziotto, vai in macchina, ha posato dritto, l'ha ricaricato tutti e te e l'ha ribussato. Registrato. Ma c'è questo allora Gianni, io l'altro anno compio 70 anni, non faccio manco 20 anni o 30 anni, perché io quando avevo da 18 anni sino ai 25 anni andavo a Piazza Terme e cercavo la riccia, quindi ero lì io. Adesso sei più grande, poi gli acciacchi che ho e l'incidente che ho avuto, insomma, è male fare, io mi immagino di finire diversamente. Quindi io la penso così e avanti Brecchi. Buonasera, un'informazione. Avanti. E vorrei sapere a quest'ora di domenica dove posso trovare bombolone alla crema, grazie. Gianni lo sa, io non, dopo non lo so queste cose qua. Ma sai che vuoi trovare? Sì, bombolone alla crema. Ciao Gianni. Ciao. Si è aperto il trismar, era pieno stamattina. No, questo bene che sono quasi le 7. Di domenica è aperto. Sì, è aperto, c'eravamo lì stamattina. No Gianni, domenica sera è chiuso il trismar, ci abitavo io trovando lì. Conrad. Rovinati siamo. Conrad. Rovinati siamo. E prendetevi altre pasta, il prossimo bombolone dovete prendere. Io voglio bomboloni perché ho il diabete è troppo basso. Almeno a 1500, 1800. Ma chi è Piero Drago? Ciao Piero, beh. Pronto? Non mi ha riconosciuto, no? Cazzo, il trend è Piero. Chi è? Kufu? Tu mi devi riconoscere, io ti ho riconosciuto. Non mi viene in mente, chi sei? Gianni Doppio Russo. Chi? Gianni Doppio Rum. Ah, ciao Gianni. No, io non sono Piero Drago veramente. Non è lui. No, è chi è? Non l'ho riconosciuto, forse perché ha cambiato radio. Forse sa perché tu ti mangi un bel bomboloni, quindi. Io no. Ammazza delle varie. E qua, è la guerra dei bomboloni, c'è. Roberto. Che era ricco, io non lo conosco, non l'ho mai sentito, almeno non mi sembra. Roberto, comunque, buonasera da questa parte. Buonasera, da questa parte di S0 c'è Frugiaglia. Non conosciamo nessuno di S0 c'è Frugiaglia. No, non mi attivo proprio Giulio, presto sono ancora senza patente, quindi c'è S0 c'è Frugiaglia, per adesso va bene. No, per adesso patente non ce ne vuole da un po' di anni a questa parte, l'hanno tolto del tutto e non si paga più le 15 euro all'anno, capito? Io sono rimasto all'antica, dai. L'antica dovresti conoscere meglio, perché anch'io sono un po' all'antica. Se tu riconosci me... Sono un uovo della frequenza, uovo, ma uovo proprio. Cioè, come hai parlato, sembra che sei un vecchio CB all'antica. Io pensavo che era Piero Draga, lo sai. Ma non è Gardino, poi sbaglio. Non so, sì. Ma Gardino, sì. Non ha la remoscia, di solito c'è la remoscia qui. Mi state sovramodulando, non si capisce un benino. e non sento nessuna sopravvalutazione. No, tra voi vi siete sopravvalutati un attimo. Roberto, ripeto. Però ci siamo presentati, dici anche il tuo nome, così veniamo a saperlo. Avanti di nuovo, amico. Aiuta, che già mi conosci, che cacchio. Non lo so, non riesco a capire, ma di persona ti conosco, che cosa? Sì, mi conosci anche di persona. Non riesco a capire. Sembra per un momento Gavino, anche se non credo di conoscerlo, Gavino di persona, ci siamo sentiti qua in radio. E quindi mi conosci di persona a me, ma per il mio lavoro o per altre cose? No, per lavoro, per radio. Anche Gianni mi conosce. Forse Gianni mi conosce anche di più. Ma Saverio sì. No, neanche Saverio. Ma non sarei Fabio Master? Negativo. Non lo so, non è che stai andando tanto, era una moto che non entravo. Se ti vuoi identificare ci farà piacere, dai. Chi sei, avanti? Chi? Chi sei, come ti chiami? Ah, vabbè, Yuriko. Sì. Adriano. Ah, ho capito tutto, infatti la modulazione è da quella persona lì, sì. Ma Adriano, quello di tanti anni fa che ci sentivamo. Come Gianni, ripeti? No, Roberto, sono io Gianni. Adriano è quello di Via Sorso, sì. Ero, no, già un bel po' che non sono lì. Sì, quello con troppe antenne, con troppe vago, con troppa roba dietro. E della modulazione si sa anche dove sì, dai. Comunque Tonino Cavazza anche da questa parte, Adriano. Ciao Tonino, ciao Gianni. Ciao Piero, credo. Roberto, scusa. Niente, sono entrato a fare una battuta. Volevo sapere veramente però dove trovare le bombe e la crema. Te l'ha detto, mi sembra solo a fianco. Ma che c'è la taglia vicino a te? E allora? Pioni siete. Cascetta che dice tutto. Comunque gli altri due ce la taglia ce ne prendi a lui, Non so se ci sono ancora. Ui. E la Ferrero ve la posso trovare, Adriano? Visto che lui mangia dice più bene. Anche le pizze, via Nurra. Ah, vista, qui la giudizia era per pigliarla anch'io. Io l'ho presa a Tonino l'altro giorno da Antonio, però si spalda abbattuta, quando andavi a prendere la tutta muta. No, lui solo ultimamente via Nurra, buona, anche quella con il cipolle è buona. E adesso non ho trovato di meglio, forse vedrà. No, la via Nurra la fa buona. Io gliel'ho detto io a Natalina di prenderla lì. Kappa. Però a me la fenica, dopo che ne mangio 4-6 cuvetti, se la mangia sempre tutta a Tonino, perché io non ne mangio. Che faccia, se mangia per 4 mani, mi sono girato, non lo prenderà più. Io dico la verità, già lo sai. Tu accusa sempre a Tonino, io dico se ne ha mangiato mezzadiglia. L'hai visto anche, delle pasta cosa ha fatto? Penso un po', io un lembo. E io già lo so, lui accusa sempre a te, accusa. Ehi, ha detto alla compagna, ma la vuoi a fare? No, meglio così, tra, 4 mani si mangia la fai. Che ti fai, ma poi tu dovrà pigliarti il gelato, Doni? Io dico da succhi. Me lo posso immaginare, è come che va un aspirapolvere. Bella fama che mi fanno, io sono un bravo ragazzo e voi che vi mangiate tutto quanto, fate la fama a me, no, la bagaglia vostra. Avanti, allora, tanti anni fa già ci siamo sentiti, saranno almeno una decina d'anni fa che è l'ultima volta che ti ho sentito. Come ha detto Gianni, sapevo che stavi nella zona di Via Sorso, famoso per i lineari, cosa facevi, cosa del genere. Nel reparto amplificatori mi pare. Ho riconosciuto la voce da lontano di Natalino, cioè Natalino, ben sentito anche a te, e ti rilancio il mic, avanti. Adriano è un tecnico informatico e anche di elettronica già ne sa. Io Adriano voglio fare una domanda. Mi dica, grigio. Pari basso. Ma ce n'è ancora quella famosa tuta che ti ha dato Salvatore Branca, nonché maestrale? Allora, la tuta non ce l'ho, però c'ho la maglietta della Ferrari. Io mi ricordo anche quello, penso un po', hai per passare le gocce che te la do. Sono passati 1-2 anni, ma perché lo stiamo parlando di 30-35 anni fa? E un bel anno fa, un me. A me aveva regalato la maglietta, se sei il rettifico. No, cioè, mi è rimasta, come ricordo, la maglietta rossa della Ferrari, aveva preso lui, quando è andato lì a Gran Premio, bella figata, allora tutta logicamente l'ho usata, se è fatto meno sbragata. Ecco, io mi ricordo che sei particolare, tempo fa, un paio di anni fa, Adriano. Quindi fa piacere anche che ti ho sentito dopo tanto tempo. Riprendo io, comunque Salvatore Maestrale l'ho sentito il 31, ci siamo sentiti, mi ha telefonato, gli manca tanto la radio, ha detto a salutare tutti gli amici in frequenza, cerca di venire il prima possibile, è una promessa, ha detto, poi Maria, ci riuniremo, troveremo il modo di rivederci tutti quanti insieme. Salutone da Salvatore Maestrale, riprendete che tocca già. Oh Romei, ma è fuori, sì, sempre. Sì, sempre in Austria, andate in pensione, adesso c'ha diciamo una pensione misera italiana, un'altra piccolina di lì che però gliel'hanno aumentata, per cui riesce a sopravvivere. La moglie le mancano fare 3-4 anni ancora, i figli si sono sistemati tutti e due, sposati e stanno benissimo. Lui però dice voglio ritornare, adesso però c'è un buco, riesce a avvicinarsi, ha detto che passa a trovarmi, poi magari. Se viene qua lo faccio sentire alla radio e salutare a tutti, dai. Ok, chi tocca? Riprendi Adriano. Ciao Roberto. Ciao Carlo, anche a te mi hai sentito. Buonasera. Ciao Carlo, comunque a prescindere da questi discorsi eccetera, Romè, che non ti capita invitare a colazione Gianni? Gianni deve meglio chiedere un mutuo, è meglio fargli un abito che invitarlo all'altro. Sto scherzando, non ti conosco da quel punto di vista, ma considerando le dimensioni penso che mangi in modo abbastanza abbondante, dai. Ma lascialo cantare, che non è vero, sono tutte fanzoni e dicono per fare un po' di Urias. Sì, caso strano te lo dico solo io, però diciamo la verità è bassa, dai, ma è in modo di scherzoso, ma è la pura verità, capito? Bugino, ne diciamo noi qua. Avanti Carlo, buonasera. Uia, cosa vi tocca sentire qua? Ho appena acceso, quindi non ho sentito niente, dai. Solo ho acceso, ho sentito che c'era Roberto e c'è stato un attimino di cosa, mi sono inserito. Buonasera a tutti. Ciao Carlo. Sono in giro a fare un po' di compere con la moglie e sono rientrato adesso. E niente, meno male che sta un po' rinfrescando, se no sembravamo a primavera e non se ne poteva più. E la sera sì, e la mattina presto, poi già si sta bene. No, mi stavano dicendo che io quando faccio colazione mi mangio non so quante bomboloni, quante cose, invece non è vero, mangio una sola di pasta e basta, se la mangio pure, molte volte non le voglio. Oh yeah. Ti fanno le certe fame questa gente, non si può fare in greggio nell'ana. Ascolta Gianni, la finestra già ce l'hai aperta, meno male, sì. Ho tutto chiuso, c'è caldo qua, ci sono i termosifoni accesi. Apri che la balla è troppo russa che ci hai detto. Ma finita. Avanti Adriano, ma ce la mettiamo la stazione? Sì, a breve, sicuramente. Io ne ho un paio di chili, te le do io, qualche baracchino. Un paio di? Sì, un paio di baracchini già ne ho. Oh, proprio quelli già non mi mancano. No, ci manca il tempo piuttosto. Ormai è arrivata la vecchiaia, manca sempre il tempo. Non è come quando eravamo ragazzi che pensavamo a cazzo e mazzi. Con la vecchiaia, andiamo in pensione. Ci piacere modulare con gli amici, poi ci si incontra, un caffè e via dicendo. Un caffè, quattro paste, già va bene. Un caffè, quattro bomboloni, via andare, così. Ma io ho capito al volo quando c'è a casa i bomboloni. Poni, lascia perdere i bomboloni. No, a me non è che mi piace i bomboloni, fatto lei per domani. Già mi piace un'altra persona qua, i bomboloni. Come tra Gianni, no? No, uno a caso, no Gianni, a caso. A me piacciono le frittelle con la crema, le ciabatte, sempre con la crema, e poi anche i cornetti con la crema, però proprio i cornetti, non i croissant, i cornetti proprio. I cannoncini sono quelli. Chiamali come voi, sono cornetti sempre. Doppi cannoni sono. Poi già lo sai come si chiamano, neanche gustate stamattina. Siete abbondati, abbasta. Oh, è buono che non verrebbe più, si accrebate. C'era quella vetrata, o uno spettacolo. Lo so, infatti ho detto meglio non è che non entri, se no tu guai, ti si butti il lugar di via. Sai cos'è? Che quando la cosa è proibita ti fa più, ti imporrà di più a mangiare. Ah, io mi devo provare i vitellini, praticamente mi ci ho mangiato una e basta, quando dico no e no, non hai capito. Io visto che tu sei abbastanza arricchito su queste cose. E hai mangiato una pasta, poi torni a casa, ti mangi il gelato, i profiterol, i seghi d'asso, ed è peggio di mangiarti due paste. Non ti credo, io guarda, ho mangiato un po' di fuga, l'ho fatto ieri, e basta, poi mi sono appisolato, poi quando mi sono alzato ho mangiato soltanto un cornetto, e mu, gelato, e mu. E qui c'ho la glicemia che bassa, se lo vuoi sapere. Va bene. Avanti a chi tocca, da. Roberto non è più entrato, bro. Dai, riprendo io. No, volevo dire una cosa a Carlo, ho conosciuto un tuo collega in gamba, radioamatore, mi ha parlato bene di te, ho detto, è la stessa cosa, ho detto, posso parlarne solo bene di Carlo, Alessandro. Ah sì, già lo so, hai visto che bella stazione che c'è Alessandro. Cavolo, non bella stazione, anche se se ne ha smontato le antenne, la cosa della paura sono le antenne. Come fa il traliccio con la luce addirittura, insomma, l'ho visto anche appeso io in quel traliccio. No, no, micidiale. Poi ho visto i danni che gli hanno fatto la cacca dell'uccello, il video l'hanno fatto vedere, è diventato opera d'arte quel video, con tutto cosa gli hanno danneggiato, con qualcosa non ne cava a piedi con questi uccelli, ho detto prova a mettere qualche sistema per allontanarli, ma gli ha fatto, sembrava una pioggia, non era neanche cacca, sembrava quando c'è una pioggia, si è riempito tutto il terrazzo di cose. Ma in gamba, Alessandro, ci siamo conosciuti a un pranzo della sezione, dai, con degli altri amici, e poi parlando cosa faceva, siamo arrivati a conoscere che tu eri il suo collega anche di un'altra persona, ma di te te ne ha parlato benissimo, come ne ho parlato naturalmente bene io. Ok, dico con Carlo che puoi farà girare agli altri. Sì, no, Alessandro già è in gamba, lui lavora con l'handling, quindi fa accettazione, il check-in, oppure esce fuori in piazzale, capito, a fare altre cose. L'handling gestiscono anche l'aereo quando ha bisogno della spinta dell'aragosta, capito, tutte quelle cose lì fanno, si occupano del centraggio e tante altre cose. Lui è in gamba e fa un po' di tutto, per cui da noi passa sempre, per cui è da noi un punto obbligato, quindi quasi tutti i giorni ci incontriamo. Ogni tanto abbiamo qualche attimo di tempo, la prendiamo parlando di antenne, di questo, di quell'altro, e insomma, già me l'aveva detto anche del pranzo, dice la prossima volta ci vieni anche tu, anche se non sei radioamatore, però ci vieni anche tu, ha detto, vabbè, fatemelo sapere, ha detto se capita già ci vengo volentieri. Avanti a chi tocca, Tonino, ciao anche che ho sentito, Natalino che non avevo sentito. Quindi non solo i CB mangiano, anche i radioamatori, di più quelli mangiano. E questo più grande mangiano di più. E la devi vedere mangiare anche bevendo, non si tirano indietro. Infatti ci vede come Walter, a chi mangia poco. E c'era qualche donato che si è dato da fare anche mangiare. Oh, io devo dire che quando la roba mi piace mi abbuffo, mangio tantissimo. Però la roba che piace a me, di quelle altre cose, varie, se neanche a vederle, se ci sono delle cose che non apprezzo, manco a vederli. Dico assaggia non prezzo, no. Però se è una cosa che mi piace, mi do da fare, anche esageratamente, considerando che le mie dimensioni non sono obeso. E tu hai dimagrito adesso, ma prima eri più grosso. Io no, assolutamente il contrario già. Io quando mi sono sposato ero magro, ragno, poi come ti sposi diventi un po' più cicciottello e ti gonfi un pochettino. Io quando mi sono sposato pesavo 60 kg, adesso ne peso 77, fate il conto. E infatti, ma non sei mai stato grosso, è più paffutello magari, diviso ti vedo più magro adesso. Adesso sì, sicuramente anche lo stress, il lavoro magari è un po' più impegnato, tante cose da fare, non dormo bene, dormo malissimo, io pure anche il sonno non ti dà tranquillità, perché se tu non riesci a recuperare le forze, alla fine non sono più ragazzino, per dire 10 anni fa le potevi fare certe cose, adesso diventa una fatica anche fare le cose più semplici. Ok, vediamo se Adriano e Natalino ci sono ancora e poi farai da noi girare, avanti. Già ci sono, andiamo. anzi ne approfitto per salutarvi che adesso ci mangiamo qualcosa, da tanto stavate parlando di mangiare, ci avete fatto venire fame. Sì, sempre a mangiarmi. Ah va, un attimo di farina, vai che ce n'è. Eppure un assaggino di farina adesso, ma me l'avrei fatto con salsiccia e cipolle, ben cotta, croccante, un pochettino, solo una giugana di andare a prenotare, a fare, poi devo uscire a prendere la mia figlia più tardi e non ne ho proprio voglia. Guarda che te la portano sino a casa, se tu la ordini, la pila te la portano sino a casa. Sì, già lo so che te la portano, già i miei amici ce la fanno pure, però preferisco mangiare altre cose. Se puoi mare con calma, con tranquillità, è meglio. Di nuovo Tonino a te il mic. Vabbè, io ripeto, quando mi viene a voglia lo spizzo telefoneggio per le 8 e qualche spicciolo, sì, passo la prendo. Però adesso che ho il numero di telefono chiamato grazie a Natalino, telefono direttamente, buonanotte. A me non me la porto fino a casa perché sono troppo distante, capito? Quindi automaticamente preferisco andare io, faccio la passeggiata in macchina e me la ritiro. Bene, Meda. Comunque, vabbè, Corix e buon Corix a Natalino e Adriano. State bene, buona carica. Ci sentiamo le prossime. Carlo, riprendi. E quindi, finite le feste, adesso sì, tutti a dieta. Perché abbiamo mangiato, ci siamo strafogati. Adesso basta fare un po' di dieta e rientriamo nel peso forma, dai. E in questo periodo era così. Da mangiare ce n'era anche troppo. Tra patate al forno con carne arrosto, panettoni e quant'altro abbiamo esagerato. Adesso un po' di dieta, sino a carnevale, poi ci mangiamo le frittelle. L'allegria di Gianni. Avete parlato in due. Ha giudizio, l'allegria di Gianni. Ma cosa, io ne ho mangiato pochissimo. Ho assaggiato un pezzo di pasta al forno, ho mangiato pochi affettati, due pezzi così, non ho mangiato poco, per non ti credere. L'unica cosa che ho mangiato è due fette di panettone, quello sì. Vabbè dai, ciao a tutti, io vi ascolto comunque. Fate da bravi perché vi ascolto. Ciao, là c'ha qualche fettina di farina. No, ma neanche per niente. No, nulla, nulla. Che cani morti che siete. Vabbè, da buon appetito. Avanti a chi spetta. Roberto, riprendi. Che io. No, anche io mi sono fatto male, soprattutto la notte di Natale. Ho anche esagerato un pochettino con mangiare. Infatti l'indomani a pranzo non si è mangiato quasi niente, dai. Perché ero troppo. Poi quando la cosa è buona, che mi piace, varia, è buona, fa un assaggio di tutto e poi alla fine dici, come hai fatto a mettercela dentro? Eppure c'è stata. Il 31 un po' meglio, dai, è stata un po' più delicata la situazione, perché ho fatto 24, 25, 31 e 1 in abbondanza. Allora, adesso meno male siamo a secchetto, dai, più tranquilli. Ok, Carlo, riprendete il microfono. Ho detto che erano giorni di festa, periodo di festa lungo, Natale, quindi abbiamo abusato di tutto. Adesso rientriamo nei normali canoni del mangiare e riacquistiamo la forma, sino a carnevale che poi iniziamo a mangiare le frittelle di nuovo. Quelle lunghe le ho già viste, ci sono già in commercio. I commerci così, tendono ad anticipare, mamma mia, e non ne usciamo più allora. Ma io le frittelle, quelle lunghe che sono spettacolari, in via Tempio, c'è Vittoria, da quando ero bambino andavamo a prenderle, ma sono troppo buone, te le fa in presenza, proprio le vedi cucinate di lì, è proprio cosa familiare, ma sono veramente buone. A Gianni le piace quelle con la crema. A me mi piacciono anche quelle. Ma pure, oi. Però non posso farne anche a meno, dai, non è una cosa. Anche io le prendevo lì, le prendevo via Tempio. Via Tempio sono buonissime, fa molto buone, morbide. No, ma sono un po', te le fa in presenza, proprio le vedi cucinare, dice fammi un chilo di coso di frittelle, te le fa davanti, mi ci dà per quello, poi calda e calda, vabbè, ma le calda e calda non è che sono tanto consigliabili che ti crepi, però le lasci un po' raffreddare e va bene. Mentre il coso, la fine è quello Benito, ancora la sta facendo. Ma io dovevo dire, Antonio ha lavorato da Benito, ha lavorato tantissimo tempo fa, si è aperto la fine lui stesso e mi è stato donato lui e la sorella. E dirò che anni la fa sempre buona. Da quella di Anurra, stai dicendo? Non mi ricordo come si chiama il cognome. No, è via Anurra, la fine di pianura o chi sta dicendo? No, all'uscita del corso proprio vicino lì. Ah sì, no, stai parlando di Benito, no, no, pensavo stavate parlando che quest'Antonio lavorava a Benito e se ne ha aperto un altro in pianura o dove? No, pardon, lui lavorava a Tizio, se non vado errato. Anche quella di via Usai è storica, buonissima, la fa sempre buona. Sì, ma te ne da un bel po' che ci ha mangiato una volta a mangiarla con Stefano. Oh, ci hanno dato una appena appena, proprio due porzioni piccole piccole. Non lo dire a me, che quando sono andato a prenderla con una mia amica qualche anno fa, io pensavo ce la stesse andando ad assaggiare per vedere come farla. Ti ha messo in un conto dopo. Ogni piatto 4 euro, ma c'erano tre fettine di fene, 8 euro ho speso. Io pensavo fosse tipo come ti dicono te, prima di mangiare un assaggino, e invece era quella la fene, 8 euro, due pezzettine di fene. No, io non ci vado mai allora lì, per carità. Quando si prende una media teglia, io con Gianni una ce l'abbiamo mangiata intera, media però. Ma proprio in salita eravamo. Se la prendi da via nulla, la teglia media, non ce la fai a mangiarla in due. E chi te l'ha detto? È che io l'ho mangiata così, la riesco a mangiare quasi tutta. Se la mangio col pane, me ne basta solo due panini e ho finito. Oh, è già pisati così, la fai lì, la mani pure con rubani. È buona già, vedi, sette otto fette dentro. Come a te ti piace la frittella piena di crema, che quando morsi, tiri il morso, ti dice la crema ai fianchi. A me piace il rubanino con la fai lì, quando chicci con un morso, ti dice li fette la roba all'acqua. L'ho presa da Sassu 4 giorni fa, rientrando con mia moglie, che eravamo al centro, una teglia media, metà normale, metà con salsiccia, 12 euro l'ho pagata, però era buona, la verità, l'abbiamo portata a casa e ce l'abbiamo divorata in tre. Già, non so quanto ho pagato quella media che ho preso da Antonio. 14 euro, e chi ti ho pagato 12? No, sicuramente la piccola, Carlo, con 12 euro ti hanno dato la piccola. La teglietta, forse sì, forse era la piccola allora, 12 euro mi è costata, perché me l'ha fatta vedere così da voi, ho detto sì, ho detto tanto siamo in tre, però diciamo era ottima, buona, non era neanche tanto impregnata d'olio, era sottile, ben cotta, proprio come piace a me, io molte volte la prendo da Oggiano, anche in via Catalocchino, angolo via Ledante, ed è ottima anche lì la fainè. Oggiano te la fa per carciofi, gorgonzola, peperoni, in qualunque genere di roba te la fa lui. Io con gorgonzola non l'ho assaggiata, lui mi ha detto che è spettacolare, il gusto la fa con gorgonzola, dice c'ha un gusto da paura. Quando c'ho tempo la prendo, io vado sempre da Oggiano, perché da bambino che ci vado, conosco tutta la famiglia. E poi chi la fa veramente buona, che te la fa prima sul forno elettrico, te la scalda con la teglia, e poi te la mette, rifinisce col forno a legna, con la spiga in via Coso, via De Mille, angolo con via Montegrappa, micidiale, veramente buona di Raffaele. Comunque Carlo, in tre, una teglia piccola, allora non siete mangioni, perché una teglia piccola mia Gianni in due non ci basta, vero già? Dipende come la fanno piccola, ho visto quella di via Nulla, la piccola è già grande. Ma io quel giorno non ho mangiato perché io volevo il pane, e poi era la prima volta, ha capito che adesso invece ci ho preso l'abitudine, vedrai come ti la mangia burla grande. Se siamo, diciamo, persone adulte, anche la teglia grande con un po' di fame parte subito. Gianni, vai piano. Io già sono andato piano. Non ho detto, non voglio mangiare, se mi viene la fame. Io sono ancora sdraiato. Alle 8 meno un quarto mi alzo, mi risveglio. E Gianni, la gamba come va? Sempre dolorante? Il dolore c'è sempre, ma si è alleviato adesso. Quando ti passa il dolore, magari ci organizziamo, andiamo a mangiare la fainé una sera. Non c'è problema, anche la pizza, la fainé, ne abbiamo fatto le pizzate tra CB, sono venuti anche da Alghero, è venuto da Porto Torres Eugenio, insomma abbiamo fatto una bella pizzata. Basta organizzarla e magari ci riusciamo, anche la fainé non sarebbe male. No, ma lì appunto se tu vai a mangiarla lì la fainé, se ne danno poca, capito? Non conviene, stare al tavolino, perché ti danno porzioni che te la mangi, sono quattro vetti. Allora giro pizza. Giro pizza già va bene. Giro pizza di lusso. Cosa ne pensi? Fai ne. Anche il sushi. Anche il sushi. Invece la roba che non ti piace. State parlando in due, non si capisce niente. Io vabbè, Carlo lo sento a bomba, però quando parlano gli altri lo schiacchi già ne devo. Ho detto che a mangiare i sushi si può andare. Una cosa che mi manco a vederlo a me, lascia perdere. I miei figli diventano scemi, vanno neanche a vederlo. Io quando lo vedo alla città mercato, alla Conad, altre volte a Carrefour ci sono questi qua che lo vendono. Mi giro dall'altra parte e mi dà senso, una cosa non proprio no. Neanche a vederlo. Pizza ne mangio quanto ne vuoi, tutti i giorni la mangerei. Fai ne uguale, Mario un po' di meno perché è un po' più pesantuccia, però se è fatta bene l'apprezzo tantissimo la fare, ma il sushi nemmeno a farmelo vedere, vai con il. Scusa un attimo, il sushi se mangi la roba che ti dico io ti piace pure. Io mangio gamberi fritti, tutta la roba cotta, la roba cruda non le mangio, ho mangiato solo l'ostrica cruda e buon pasta. A me il pescato crudo lascia perdere, qualche volta è capitato le alici che te le fanno così. Sono andato quest'estate allo Scoglio Lungo, ha voluto fare lui, ma mai più a mangiare roba cruda. Infatti se ne sono uscito con la fame, una barca di soldi, faccio io e fai tu. Invece, mamma mia, lasciamo perdere. No, a me il pesce crudo mi nausea, roba. Con tutte queste cremine sopra, tipo, come si chiama, tipo queste marmellate di chi non so che cosa erano, tutte le addobbate, colorate, c'è proprio più fame, gamberetti che crudi fanno letteralmente schifo, con questa crema di non so che cosa era, poi questa tipo coso, zucchero, tipo il cartò, cosa del genere, infatti ho detto, ma c'è proprio più fame di quando sono entrato. No, io i gamberi crudi già li mangio, mi piacciono, anche appena presi, anche quelli trasparenti, crudi, sono buoni. Vabbè, dipende dai gusti. C'è una parte del sushi che ti danno praticamente scampi aperti, no, in due, gli scampi, allora il ghiaccio sotto e poi ti mettono pezzi di pesce, scampi, gamberi crudi già sgusciati, ostriche, ti mettono anche, come si chiama, non la ragosa ma quella blu, come si chiama, non me lo ricordo, vabbè, l'astice, ti mettono l'astice spaccata in due, però crudi, capito? No, io neanche a vederlo. Già le cozze, mangiarle crude, sono andato alla salgaia delle cozze anni fa a Olbia, ma ne mangi qualcuno, non è la stessa cosa. Il pesce, la roba va sempre cotta, a parte per questioni di batteri, che cose strane, soprattutto quando chissà dove arrivano questi pesci e questi crostacei che portano. Lo dico a te che puoi fare girare a Carlo. Non va tutti qui. Io mi associo a te, Carlo, Roberto, perché io sushi e pesce fresco, cioè io crudo, nulla, zero, proprio, scusate la parola, mi fa schifo, quindi niente. Molti hanno mangiato il buono, quella non mi piace, era me, solo a vederlo, non ci riesco, niente, preferisco più una pasta asciutta e prendete che un pesce così, io sempre cotto, io le orate quando me le compro, anche quelle di allevamento, me le pulisco io, che c'è poco da pulire, lo sappiamo, per quelle di allevamento non c'hanno le squame, ne ho pochissime, comunque, e niente, me lo faccio a cartoccia al forno, ma me lo sto cucinando io, è tutta un'altra cosa. A me roba cruda, no, zero, io tutto sempre cotto, già il pesce ne mangio poco io, ho l'orata, poi mi piace il muschio, mi piace un po', col calamaro, questa roba così, non è ci vado pazzo proprio per i pesci, deve essere un pesce molto grande che tocca la spina unica, l'unico pesce piccolo che mangio è la sardina, perché la spina è delicata, è capita, è morbida e quindi riesco a mangiarla, molto invece mi dice il zarrete, mi dice il buono, quella polà, me non piace perché la spina troppo dura e poi no, non mi va. L'unico ho detto pesce piccolo è la sardina per me. Fate mille maniere, è buonissima. carne lo riprendi? Io non solo il pesce lo voglio cotto, ma anche la carne ben cotta. A me quella al sangue, per esempio, non è che mi fa tanto a genio. Io la voglio, cioè voglio che la carne sia, non dico secca o asciutta, però cotta giusta, capito? E il pesce, lo stesso sushi non fa per me, non ne ho mai mangiato e pesce crudo non ne mangerò mai, sempre cotto. Il pesce lo mangio, mi piace qualsiasi tipo di pesce, dai gamberi all'aragosta, astice, pesci, triglie, zerri, qualsiasi cosa, però sempre cotti, frittura o pesce grigliato, quello sì. Anche le sepie grigliate sono eccezionali, però sempre cotte bene. Io la carne di cavallo la mangio scaldata da una parte e dall'altra, è mangiata così. Anche il fegato mi piace un po' grossetto e cotto poco, scaldato un po', vabbè, è una questione di gusto. Però il pesce crudo, ti ripeto, mi nausea, per cui io mangio solo la roba cotta al sushi. E ci sono tante cose buone al sushi che se tu conosci, le mangi, ti piacciono anche, tipo i gamberi fritti, i gamberi, gli spiedi di gamberetti, tutte queste cose qua, le anguille con il riso, eccetera, eccetera, la pasta di coso, di mais, con i frutti di mare. Sì, già mi è capitato anche a me di andare a mangiare, non dico il sushi, ma ristorante cinese, eccetera, però sono andato a selezionarmi il riso che era cotto, oppure la frittura, tutta roba cotta, capito? Di crudo niente. Se in effetti capiti lì, se vuoi puoi trovare le cose, insomma, che sono cotte e non muori di fame. Già non è che sono schizzinoso da non mangiare quel tipo di pesce lì e di cucina cinese, asiatica, come la vuoi chiamare, però preferisco sempre tutta la roba cotta. Io, per chi ci vuole andare, consiglio di andare lì al Milano 26, dove hanno aperto un nuovo ristorante giapponese, si mangia da Dio. Dove c'era la pizzeria? Esatto, sì, al Milano 26, ci sono andato giorni fa. Capito, non lo sapevo che avessero aperto lì un locale del genere, perché ci sono andato io a mangiare la pizza lì e spesso ci accompagnava anche mia figlia per festivi compleanno, eccetera, so che ci sono i campetti giù, però non lo sapevo che avessero aperto, forse da poco. Allora va bene, riprendi pure Tonino. Mi sono notato un attimino, ma capito, quello che abbiamo 26 fa il sushi, è una creatrice officina, la proprietaria, una ragazza un po' simpatica. No, loro non ce l'hanno più, no, era di Niolo quello. Vabbè, ma io ci manca 50 anni di lì, ormai è tutto cambiato di lì, hanno la gestione loro di cosa, hanno cambiato una varia di proprietari, c'era anche Scarpa prima del Fabio, quando hanno iniziato di lì, poi non credo che ci sia più adesso. Io non mi sa che c'ha solo l'officina di gommista. Sì, prima tanti anni fa era una potenza, adesso è cambiato qualcosina, il mercato è totalmente modificato, soprattutto nel campo dei pneumatici. Cosa volevo dire? No, a me proprio, ripeto, l'unica cosa che riesco a mangiare è crudo, le alici, quelle marinate, che c'è l'aceto, il coso, che le devi prima pulire perché è talmente speziato che ti fanno anche, ne mangi una come hai mangiato un pasto completo, solo quelle lì e bu. Tutto il resto deve essere cotto e cotto bene. Carne non ne mangio quasi niente io, qualche fesseria, ma non carni grasse, posso mangiare il pollo, un pezzo di salsiccione. Qualche volta è capitato il cavallo, però me lo devo fare io, proprio deve essere tipo sulla di scarpa, se no non li mangio e basta. Affettati li mangio tutti, però carne grasse tipo maiale, cose del genere, nulla. Neanche ti attirano, le vedo, sono andato a un sacco di sagre del porcetto, del maialetto, quelle che fanno nel Morese, ti attirano, però non ne prendo, preferisco 10.000 volte il pesce. Infatti quando sono delle arrostite e cose del genere sanno già che io non ne mangio, per cui mi devo organizzare con qualcos'altro, dico mi portate il salsiccione, maneggiare arrosto o cose del genere, però io carne, loro si fanno la pancetta, tutte quelle cose lì, partecipo, però sono mangiano gli altri, mentre se c'è pesce sono numero uno a mangiare pesce. Non parliamo poi tipo calamari arrosto, polpi e cose del genere, cozze, di tutto di più quello. Carne quasi niente. Di nuovo a te Carlo. Sapessi come lo fanno il salsiccione, robe non ne mangeresti. L'importante sappia dove l'ho preso il salsiccione, lo fanno degli amici, vado da loro, che lo producono loro, e macellerie sicure, dai. Naturalmente capita anche alla Conad di andare a prenderlo. E già, e tutte le cose, se pensiamo al male, perché i polli, quelli che stiamo prendendo, polli arrosto, belli, croccanti, e sono tutti riempiti di antibiotici, loro ti dicono coltivati, come si chiama, a terra, non coltivati come si dice, vabbè, non mi viene la parola, addestrati, in terra, poi sono tutti pieni di medicine, di cose, per cui lasciamo perdere. O i vius, perché se li vedi facendo, tu non mangi più di panini con i vius. Comunque, vabbè, i colorati per non far vedere il grasso lo mettono.